GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Arrestata con l'accusa di omicidio stradale, la militare statunitense che alla guida della sua macchina ha travolto e ucciso a Porcia Giovanni Zanier, di 15 anni. Il ragazzino si trovava con alcuni amici e portava a mano la sua bici a bordo strada. Sfugge al controllo dei genitori, corre improvvisamente in strada e viene investito. Grave trauma cranico per un bimbo di 2 anni e mezzo in vacanza con la famiglia a Lignano. Scade alle 20 di oggi il termine per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni del 25 settembre. Ieri depositati i primi elenchi dei candidati per Camera e Senato, 8 le liste presentate. Dopo un'estate positiva, i prossimi mesi preoccupano gli albergatori di Grado. Con il peso del costo dell'energia si fa fatica a far quadrare i conti, con il rischio di andare in perdita. Finita l'emergenza Covid, con l'avvio dell'anno scolastico riammessi in classe i professori Novax, nuovo anno che riparte senza obblighi, la preoccupazione dei presidi. Mestieri che stanno scomparendo, i tosatori di pecore che in regione non ci sono, tanto da importarne uno dal Trentino che ora opera tra Sauris e Ovaro. Lo sport, agli europei di atletica eliminata nelle semifinali dei 100 ostacoli l'atleta triestina Elisa Di Lazzaro, alla Nations Cup di Roma nel sincro maschile vittoria della coppia azzurra di tuffatori formata dal triestino Andrea Barnabà e dal calabrese Alessandro De Rose. Dominio sloveno alla staffetta tre rifugi di Collina di Fornia Voltri, gli atleti d'oltre confine centrano la doppietta vincendo sia al maschile che al femminile. Buongiorno da Livia Liberatore e da Elisabetta Zaccone in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. In apertura subito uno sguardo alle condizioni meteo, la nuvolosità è variabile su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 20 gradi e mezzo, il mare è calmo con una temperatura di 25 gradi e mezzo, a Udine 18 gradi e mezzo, a Pordenone 17 gradi, a Gorizia 14 e mezzo, a Tolmezzo 15 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 15, a Piancavallo 10, a Tarvisio 8 gradi e mezzo, a Sappada 7 gradi e mezzo, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 10 gradi, a Lignano 22, a Grado 21 gradi e mezzo, la temperatura del mare è di 25 gradi. Le previsioni su tutta la regione: cielo in genere variabile, ma sulla fascia orientale, specie sulle Alpi Giulie, sarà probabile maggiore nuvolosità con la possibilità di qualche debole pioggia sul Tarvisiano, venti a regime di brezza ma in genere deboli. In apertura la tragedia di Porcia, è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale ed è agli arresti domiciliari la soldatessa statunitense della base USAF di Aviano che sabato notte ha travolto e ucciso con la sua auto Giovanni Zanier di 15 anni. Il ragazzo camminava sulla ciclabile con 2 amici rimasti illesi. È stata arrestata dalla procura di Pordenone e condotta ai domiciliari presso la base USAF di Aviano con l'accusa di omicidio stradale del quindicenne Giovanni Zanier a Porcia la notte scorsa la militare statunitense di 20 anni. In base ai primi accertamenti dei carabinieri l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 2:30 e nell'impatto avvenuto da dietro il quindicenne è stato sbalzato a una decina di metri di distanza. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto il ragazzo era ancora vivo. La giovane, sotto shock, è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta all'alcol test, di cui ancora si attendono i risultati. Una testimone, Maria Agnani. Al momento si è alzata, dopo dicevano gli amici sta giù, sta giù, sta giù. E dopo cercava sempre da muoversi, si lamentava, dopo è arrivata l'ambulanza, la polizia. Diverse le persone che sono arrivate sul luogo della tragedia, chi per una preghiera, chi per posare un fiore o un lumino. Jessica, un'amica speciale. Giovanni era un ragazzo simpatico, gentile, affezionato, si affezionava sempre con tutte le persone. È una persona molto speciale per me. E soprattutto mi ha aiutato moltissimo in alcuni periodi quando stavo male. Nella chat che avevo insieme a lui, che adesso non ce l'ho più, e ci scrivevamo tantissime belle cose, tipo ci vogliamo bene, e quando usciamo, insieme anche agli altri suoi amici e anche una mia amica. Porcia, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Un bambino di 2 anni e mezzo è stato investito da un auto a Lignano ieri mattina ed è stato portato all'ospedale di Udine in gravi condizioni a causa di un trauma cranico. Il piccolo, di origine vietnamita ma residente a Budapest in Ungheria, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare a Lignano con la famiglia. I genitori avevano affittato dal giorno prima dell'incidente un appartamento al piano terra in via dei Platani. Ieri mattina verso le 9 il bimbo stava facendo colazione insieme ai genitori e 3 fratelli quando all'improvviso è corso in strada sfuggendo per pochi istanti al controllo di mamma e papà ed è stato investito. Appena si è accorto di averlo colpito, l'automobilista è stato il primo a prestare i soccorsi. Sentiamo la voce di un testimone dell'incidente. È uscito dall'appartamento, che i genitori avevano lasciato la porta aperta, ha attraversato la strada, in quel momento sopraggiungeva un'auto. L'auto andava veramente pianissimo, probabilmente anche sotto i 30 km orari, e purtroppo è stato preso dall'autovettura che passava. Sta per scadere il tempo per la presentazione delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni. Entro le 20 di questa sera tutti i movimenti politici dovranno rendere noti i candidati che correranno in Friuli Venezia Giulia. Ieri sono stati depositati gli elenchi. Il primo ad arrivare alla Corte d'Appello di Trieste per presentare i propri candidati è stato il Movimento 5 Stelle, con la conferma dei nomi già emersi. Luca Sutt sarà candidato nel collegio di Pordenone Alto Friuli e guiderà anche la lista per il proporzionale alla Camera. Per Montecitorio, all'uninominale, i pentastellati schierano anche Cesidio Antidormi e Adriana Panzera. Stefano Patuanelli è candidato nel collegio unico del Senato per il maggioritario e guiderà anche la lista del proporzionale per Palazzo Madama. 8 finora le liste che hanno depositato nomi e documentazione per Camera e Senato, oltre ai pentastellati anche la lista Vita, che schiera Ugo Rossi capolista alla Camera e Marco Bertali al Senato. Italia Sovrana e Popolare, che candida capolista per la Camera Pamela Volpi, mentre per il Senato Andrea Zoc. Unione Popolare, dove i capolista al proporzionale sono Anna Manfredi per Montecitorio e Gregorio Piccin per Palazzo Madama. Nel pomeriggio si sono aggiunti i nomi di Per l'Italia con Paragone, capolista lista al Senato sarà Antonino Iracà, che corre anche all'uninominale per Palazzo Madama. Alla Camera la capolista è Raffaella Regoli, mentre nei 3 collegi uninominali ci sono Esther Dilda, Ketty Rodela e Franco Zonta. I Gillette arancioni hanno presentato finora solo i candidati per la Camera. In serata gli ultimi a presentare gli elenchi sono stati Pensiero Azione e Impegno Civico Luigi Di Maio, Centro Democratico. Mancano dunque all'appello le coalizioni di centrodestra, di centrosinistra e i centristi di Renzi e Calenda. In quest'ultimo caso i giochi sono ampiamente fatti. I nomi chiave sono quelli di Ettore Rosato e Isabella De Monte, che aprono la lista per il proporzionale alla Camera. Nel centro-sinistra, già chiusa da alcuni giorni la partita per il PD, con Serracchiani e Reutz capolista per Camera e Senato, e le candidature di Favrette, Conti e Celotti nei 3 collegi della Camera. Al Senato, per la coalizione di centro-sinistra, correrà Furio Honsel. Nella stessa coalizione, la lista di Sinistra Italiana Europa Verde ha già ufficializzato i ruoli di capolista per Pellegrino e Cimolino. La coalizione di centrodestra ha già definito i candidati al maggioritario, che sono Luca Ciriani per il Senato e Gava, Rizzetto e Panizzut alla Camera. Ancora da definire le singole liste di Forza Italia e Fratelli d'Italia, dove i confronti sono ancora in corso a livello nazionale. La Lega invece ha già scelto Vania Gava alla Camera e Marco Dreosto al Senato come capolista, e Noi Moderati per le stesse posizioni schiera Giulia Manzan ed Enzo Bortolotti. I professori non vaccinati saranno riammessi a tutti gli effetti all'attività didattica dal 1 settembre, con l'inizio dell'anno scolastico. Lo indica una nota del Ministero dell'Istruzione sulle misure standard per la prevenzione del Covid. Sentiamo il commento di Luca Gervasutti, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo a che fare con un virus subdolo e questo rende difficile, se non impossibile, prevedere se ci sarà una ripresa della pandemia o se finalmente, dopo 3 anni difficilissimi, quello che inizierà a settembre segnerà un ritorno alla normalità. A ciò si aggiunga che l'incertezza che ci accompagnerà al rientro delle vacanze estive non è mitigata dalle indicazioni che sono arrivate nei giorni scorsi dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute. Quel che sappiamo è che, almeno inizialmente, dovremmo comportarci come se il virus fosse un lontano ricordo, e quindi niente mascherine, distanziamento solo là dove sarà possibile, porte aperte anche ai docenti e al personale Novax, parliamo di un migliaio di persone, niente organico Covid e quindi non avremo neanche la possibilità di beneficiare di personale aggiuntivo per ovviare tempestivamente alle assenze di docenti che dovessero contrarre il virus o per far fronte a emergenze organizzative o didattiche. Dunque c'è una forte preoccupazione in vista del rientro a scuola. Gli operatori turistici guardano con soddisfazione al bilancio, seppur parziale, di quest'estate, ma allo stesso tempo temono i costi di gestione per l'autunno-inverno, soprattutto a causa dell'energia. Siamo andati a Grado, dove il tema della destagionalizzazione è da tempo al centro del confronto sul futuro della città. Basket con i campioni sulla spiaggia di Grado. Le limitazioni indotte dal Covid sembrano ormai alle spalle e la routine vacanziera è nuovamente libera. Ma di fronte a una tranquillità ritrovata, nuove nubi si affacciano purtroppo sugli orizzonti turistici e sono quelle dei rincari energetici. Dopo il devastante inverno Covid, per il settore alberghiero e ricettivo dunque ancora incertezza e instabilità per un conflitto che non accenna a placarsi. Giuseppe Falconieri, imprenditore e manager alberghiero. Ci sono dei comportamenti in atto da parte dei consumatori dopo questi 3 anni di crisi, di Covid, anche per questa guerra Russia-Ucraina, che hanno un impatto proprio sulla programmazione della domanda, che diventa sempre più schizofrenica. Stiamo passando da una domanda last minute, adesso addirittura una domanda last second. Ci troviamo anche a fronteggiare il noto incremento dei costi energetici che sta avendo un impatto estremamente preoccupante, per cui ritengo che sarà anche un pochino difficile immaginare durante la bassa stagione come si possano prevedere chiusure stagionali oppure rimanere aperti. L'atteggiamento che riscontriamo nei nostri ospiti, nei nostri clienti, cioè questo clima di incertezza, ha creato in noi delle paure, un tasso di disagio che è percepibile proprio nel rapporto umano tra struttura ricettiva e clientela. Ed oltre ai costi energetici cominciano a farsi sentire anche carenze nelle forniture e continuano le difficoltà nel reperire il personale. Nei giorni scorsi abbiamo avuto dei problemi, le bombe del gas non erano disponibili per realizzare l'acqua frizzante durante il periodo di Ferragosto, quindi acquistare delle bottiglie di acqua minerale, ma sono fenomeni a cui non avevamo mai assistito in passato. Un'altra delle sfide che abbiamo dovuto affrontare è proprio quello anche della volatilità delle risorse umane, sto parlando dei nostri collaboratori, c'è una disaffezione verso il mondo del lavoro durante questa stagione. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Eccezionale e unico il trapianto multiplo di cuore e 2 polmoni in ECMO effettuato su una ragazza pugliese di 19 anni, durato 12 ore, che è stato portato a termine all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, è reso possibile da un donatore di Trieste al quale è stato prelevato il blocco cuore-polmoni. Per salvare la giovane è stata lanciata una richiesta in urgenza nazionale dei 3 organi per un unico trapianto salvavita. La ragazza pugliese era affetta da ipertensione polmonare primitiva, sotto terapia con la ventilazione meccanica al Policlinico di Bari e con l'ECMO, una tecnica di circolazione extracorporea per pazienti con grave insufficienza cardiaca o respiratoria refrattaria ai farmaci. Per lei l'unica strada percorribile era il trapianto. Con un volo speciale dell'aeronautica militare è stata portata al centro trapianti cuore polmone delle Molinette, da dove è partita la richiesta urgente dei 3 organi. Quindi l'epilogo positivo grazie al donatore triestino. Prende il via oggi a Udine un intervento di asfaltatura nei sottopassi di Piazzale Cella, sia quello che porta in via Pozzuolo, sia quello che proviene da via Lumignacco. I lavori dureranno 3-4 giorni, ma i tempi potrebbero essere più lunghi in caso di maltempo. Ci saranno ripercussioni sulla viabilità, le modifiche saranno indicate su appositi cartelloni. Le chiusure dureranno alcune ore per ciascuna lavorazione, le asfaltature saranno eseguite verso la sera, evitando le ore di punta del mattino. Di conseguenza, nei giorni sopracitati, per evitare disagi al traffico, se si è diretti verso il centro nord, il consiglio è di percorrere viale Palmanova. Ora occupiamoci di mestieri quasi in via di estinzione, almeno nel nostro territorio, i tosatori di pecore, che in regione non ci sono, tanto da doverne importare uno dal Trentino che opera tra Sauris e Ovaro. Tutte le pecore devono essere tosate almeno una volta l'anno, ma soprattutto sull'arco alpino è difficile trovare tosatori. Prima del Covid ne venivano tanti dalla Nuova Zelanda, oggi non se ne vedono più. Maurizio Fuchs, pastore. Non ce ne sono proprio, ci sono questi 3 signori qua che è ormai tanti anni che vengono, ma altri non saprei dove andare a prenderli. Non è un mestiere semplice, è un lavoro stagionale. Si tosa solo quando c'è il sole, anche a 40 gradi, piegati tutto il giorno. Domenico, tosatore. Ci sono persone che smettono anche dopo 5 anni perché la schiena si rompe, o altra, o i tendini o altro, e persone invece che durano anche una vita, 50 anni a tosare. In questo recinto tra le montagne della Carnia, in Friuli Venezia Giulia, convivono due mestieri d'altri tempi, pastori transumanti e tosatori. Per contare le pecore si usano ancora i sassolini, ogni 100 capi si passa una pietruzza da una tasca all'altra. Sono venuto a portare un po' di caffè e una mela per mezzamattina e poi facciamo la pasta. Cercava un lavoro che gli permettesse di viaggiare e vedere l'estero, Domenico. In Nuova Zelanda, dove si tosa quando qui è inverno, ha imparato la tecnica. Il giorno prima in provincia di Varese, quello successivo in quella di Udine. Qual è la cosa più difficile di questo mestiere? Stare lontano dalla famiglia per me. Inizia a essere tanto difficile. Noi dormiamo in furgone, che siamo anche distanti 5 o 6 ore da casa. O riposi o viaggi durante la notte per andare avanti e indietro, però toccherà riposare. I nostri velli sono considerati di scarsa qualità per l'industria tessile e l'artigianato, non ce ne sono abbastanza per altri utilizzi. La lana è considerata un rifiuto speciale ed è difficile smaltirla, per questo stanno nascendo realtà che si propongono di riutilizzarla nei modi più creativi. Adesso, per fortuna, sembrerebbe che è arrivato uno che la porta via pagandogli il trasporto, però dovrebbe portarla via, non so cosa faccia, mi sembra fertilizzante via. Ultimamente pastore e tosatore vedono le pecore sempre più nervose. Secondo me a causa dei predatori, ci sono troppi lupi e troppi orsi in giro, non riescono più a essere concentrati e gli animali vivono col terrore, stanno sempre sugli attenti, non è vita. Sauris, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Come è cambiato il mestiere di truccatore, di moda, teatro e anche di cinema, un settore sempre più alla ricerca di professionisti specializzati in effetti speciali. Dopo un periodo non facile a causa del Covid, è partita dalla truccatrice triestina Dorina Forti l'idea di creare un'associazione nazionale per formare nuovi professionisti del settore. Compie 40 anni e T, il simpatico alieno che voleva telefonare a casa, nato dal genio di Carlo Rambaldi, papà anche di Alien e King Kong, creature che gli sono valse 3 premi Oscar. Oggi l'artigianalità degli effetti speciali rischia di perdersi, per le nuove generazioni tutto è digitale, ma grazie all'intuizione della triestina Dorina Forti, truccatrice d'esperienza, è nata una nuova associazione nazionale che ha tra le sue missioni anche quella di recuperare la tradizione. Antes si occupa della tutela non solamente dei truccatori dello spettacolo cinematografico, teatrali, ma anche i truccatori normali, quelli della moda, i truccatori in generale ed effetti speciali. Prima per la tutela, secondo, noi vogliamo assolutamente creare questa ragnatela di formazione didattica. Difatti abbiamo le nostre già 3 sedi che sono Roma, Milano e Lamezia Terme, però abbiamo 15 gruppi regionali. La Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, con sede a Roma, crede molto in questo progetto che nasce proprio dalla grande crisi economica data dalla pandemia e che ha colpito i lavoratori del settore trucco ed effetti speciali. C'è un ritorno agli effetti speciali tradizionali e noi puntiamo proprio su questo discorso. Oggigiorno i bambini, i ragazzi sono abituati a vedere il massimo in pixel, perché tutti i giochi che ci sono oggi sono ipertecnologici, quindi loro non hanno proprio più la consapevolezza di cosa significhi creare e plasmare le proprie idee con le mani. E noi con Dorina abbiamo pensato di dare questo approccio, quindi far vedere cosa significa creare una ferita, un ematoma. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli europei di atletica che si sono conclusi ieri a Monaco di Baviera, eliminata nelle semifinali dei 100 ostacoli l'atleta triestina Elisa Di Lazzaro. L'ostacolista ha chiuso in quinta piazza la prima semifinale con lo stesso crono della batteria, ovvero in 13:11, posizione che però non è stata sufficiente per accedere in finale. Tuffi da grandi altezze alla prima edizione della Nations Cup al Foro Italico di Roma, nel sincro maschile vittoria della coppia azzurra formata dal triestino Andrea Barnabà e dal calabrese Alessandro De Rose, bronzo europeo dai 27 metri. Strapotere sloveno alla 59esima edizione della staffetta Tre Rifugi di Collina di Forni a Voltri. Nella storica gara di corsa in montagna inserita nel circuito della Federazione Italiana Sky Running, gli atleti d'oltre confine centrano la doppietta vincendo sia al maschile che al femminile. Dopo 3 secondi posti consecutivi, una volta dietro l'Atletica Dolce Nord-Est e 2 alle spalle della Gemona Atletica, il terzetto maschile si è imposto in 1:16:17, dopo una gara praticamente sempre al comando. Se in salita Timothy Bacon era arrivato appena qualche secondo dietro al britannico Chris Richards, al secondo cambio Jost Lapagne ha lanciato per primo il compagno di squadra Matic Plaznik, arrivato in solitaria a tagliare il traguardo di Collina. Secondi gli inglesi e terzi gli sloveni della squadra B, quarti campioni del 2019 e del 2021 della Gemona Atletica, che schieravano Giulio Simonetti in salita, Tiziano Moia sullo Spinotti e Marco Rossetto. Tra le donne ancora un successo straniero, la Slovenia di Lucia Kroc, 13ª assoluta in salita, Petra Tratnik e Anna Kuffer ha doppiato il successo della passata edizione, costruendo la vittoria soprattutto in prima frazione, resistendo agli ottimi tempi in attraversata e discesa delle inglesi. Il loro tempo finale è stato di 1:30:42. Tra le donne è la 10ª volta che si afferma una squadra slovena, 90 le squadre al via, 57 maschili e 23 femminili, 270 gli atleti che si sono alternati tra salita, attraversata e discesa, dalla partenza di Collina a 1233 metri sul livello del mare al passo Sella, punto più alto della gara, a 2197 metri di quota. Sono le 7:39, ora la pagina degli spettacoli. Il mezzo soprano Daniela Barcellona e il direttore d'orchestra Alessandro Vitiello tornano a Trieste come docenti della masterclass di canto lirico organizzata dall'Associazione Amici Gioventù Musicale di Trieste in collaborazione con la Fondazione del Teatro Lirico Verdi. Ne abbiamo parlato con Daniela Barcellona. La masterclass inizia il giorno 25 con le audizioni per chi ha fatto domanda, appunto per decidere chi saranno gli allievi effettivi e chi saranno gli uditori, anche perché poi gli allievi effettivi saranno quelli che si esibiranno nel concerto finale al Ridotto del Teatro Verdi il giorno 31 di agosto. E poi appunto dal 26 al 30 ci sarà la masterclass vera e propria con gli allievi appunto effettivi. Chi può partecipare quindi? Possono partecipare tutti quanti, possono partecipare anche delle persone che vengono da fuori, basta iscriversi e come uditori fino alla capienza della sala, chi vuole partecipare può entrare. Come ne è venuta l'idea di una masterclass? L'idea è venuta fra me e Alessandro, proprio Alessandro Vitiello, che sarà docente con me alla masterclass, pensando a poter dare, diciamo, la nostra esperienza ai ragazzi, alle nuove generazioni dell'opera, quindi mettere a loro disposizione tutto quello che noi abbiamo imparato durante la carriera, dal punto di vista tecnico, pratico, proprio di palcoscenico, anche di come giostrarsi un po' anche nel mondo dell'opera. In generale è un'esperienza a tutto tondo. Sarà un grande impegno quello che viene richiesto ai ragazzi. Certamente, ma di solito anche l'altro anno abbiamo avuto questa esperienza e loro si sono impegnati tantissimo, con grande serietà, hanno studiato e per noi è stato questo una fonte di grandissima soddisfazione. Qual è la cosa che le piace vedere in un giovane? La passione e la serietà, soprattutto la voglia di dare se stessi, di esprimersi, di essere preparati, di studiare, ma soprattutto passione e serietà e professionalità. A conclusione della rassegna Dante Hub e il futuro delle città, stasera alle 21 alla stazione Rogers di Trieste si terrà il concerto elettroacustico per voce sola, Officine Metalliche, di e con Ivan Zerbinati. Uno spettacolo prodotto da Bonaventura Teatro Miela, tutto nato nella testa ma anche nel garage dell'attore performer Ivan Zerbinati. Ne abbiamo parlato con Laura Forcestini, coordinatrice del progetto Dante Hub. Abbiamo pensato di presentarlo perché è uno spettacolo molto particolare, lui lavora praticamente da solo, recita canti di Dante, però poi con tutta un inserimenti di suoni, di voci, quindi è una cosa estremamente eccentrica e devo dire molto molto molto bella, devo dire. Lo spettacolo, diciamo, è l'evento conclusivo della rassegna Dante Hub, il futuro delle città, con cui Stazione Rogers ha iniziato l'anno scorso. e abbiamo pensato che, questa è una produzione poi recente di qualche mese fa, di chiudere questa rassegna appunto presentando questo spettacolo, che poi avrà un evento conclusivo, perché riprenderemo l'evento e attraverso una rielaborazione di Antonio Giacomin faremo delle proiezioni a Monfalcone e anche a Muggia, che il comune di Muggia è il nostro partner. Ogni spettatore verrà dotato di una cuffia, quindi sarà uno spettacolo estremamente immersivo perché si ascolterà attraverso la cuffia wireless. Vediamo di riproporvi fra poco il servizio e ora iniziamo la rassegna stampa. Iniziamo dal Piccolo di Trieste, che in prima pagina ha il caro bollette nei locali con aumenti fino al 300%, un'impennata che sta mettendo in ginocchio i titolari di esercizi. Un esempio: bollette di elettricità da oltre 15.000 euro per una gelateria. Titolari che pensano a ritocchi dei prezzi e che lanciano un appello: le istituzioni intervengano. Se si continua così, dice la Presidente della FIPE Federica Suban, il rischio chiusure non è così lontano. Poi sconti sui bus e nidi, così le aziende aiutano i dipendenti, il servizio e sui programmi di welfare aziendale di grandi realtà triestine regionali come SIOT, Fincantieri e Allianz. E poi gli scrittori austriaci che plaudono alla nuova iniziativa commerciale, l'apertura del caffè Sacher dello storico marchio viennese. Trieste è la città ideale per questa novità imprenditoriale, dicono. Il Messaggero Veneto di Udine apre sugli universitari e il caro affitti in un anno cresciuti del più 22%, mentre aumenta la richiesta di alloggi, la disponibilità rimane invariata, una stanza singola costa il 6,3% in più, una doppia al 22%. Nella foto in prima pagina l'incidente di Porcia, travolto e ucciso a 15 anni, è arrestata l'investitrice. Dalla colonna destra leggiamo i titoli di cronaca locale: maxi furto di rame in un'azienda a Pavia di Udine, bottino di 40.000 euro. Grave un bimbo di 2 anni investito da un'auto a Lignano e poi sarà il consorzio di bonifica a eseguire i dragaggi tra San Giorgio e Marano. Sul fondo lo sport, Sensini, l'Udinese, è ancora in via di formazione e la cultura. Così Scerbanenco imboccò la strada del noir. Anche l'edizione di Gorizia di Monfalcone del Piccolo ha in prima pagina la tragedia del quindicenne travolto da una macchina a Porcia. In prima pagina anche la futura nuova vita del Parco Basaglia di Gorizia. La palazzina direzionale all'ingresso diventerà un punto di ristoro sul modello del Posto delle Fragole del Parco di San Giovanni a Trieste. Il parco è destinato a diventare un centro di aggregazione sociale e culturale transfrontaliero, anche in vista del 2025, quando Gorizia e Nova Gorizia saranno chiamate a rivestire il ruolo di capitale della cultura. E poi un articolo sulle memorie del soldato Janos Gunes, il militare ungherese catturato sul Carso Goriziano nella Prima Guerra Mondiale, che sono servite come spunto per approfondire le ricerche sui temi bellici. Il diario inedito del soldato verrà presentato a breve in italiano e in ungherese. Travolto e ucciso a 15 anni, arrestata l'investitrice, il titolo di apertura del Messaggero di Pordenone, con il ricordo dei genitori, un ragazzo che amava il nuoto, il parkour e l'informatica, e un articolo sulla sicurezza stradale nel punto dove è avvenuto lo scontro. Luci spente su quella rotonda, pesa il caro energia, dalle 2 alle 6 strade buie per risparmiare. Il giorno prima c'era stato un altro incidente. In prima pagina anche la scuola, a settembre i Novax ammessi all'insegnamento, si cercano docenti di sostegno e bidelli, e poi l'edilizia, in arrivo più controlli antifrode sul superbonus 110%, infine da Sacile tramonta il progetto del policlinico, apre un ambulatorio privato. Tragedia dopo la discoteca, muore a 15 anni anche l'apertura del Gazzettino di Pordenone. I genitori: sentiamo il vuoto, ha cenato con noi e l'abbiamo perso, i due amici al suo fianco, l'abbiamo visto volare. Sulla destra del giornale le elezioni, rush finale per le liste e poi la campagna elettorale. A San Vito, addio a 103 anni a nonna Maria, aveva predetto la sua morte. Da Pordenone, liquido scuro e maleodorante, pioggia di proteste all'Eco Piazzola. Sul fondo lo sport, Nero Verdi, 8 gol in 3 giorni per far sognare Di Carlo, il ciclismo, Buratti e Miljojevic sono i 2 assi del Cycling Team al Giro del Friuli. All'edizione di Udine dalla cronaca locale un approfondimento sul turismo. Il Friuli scopre i campeggi di lusso, dalla montagna al mare, un'ottima stagione nelle 39 strutture presenti in Friuli Venezia Giulia. Da San Daniele, successo per la festa del prosciutto, è già tutto esaurito. Vediamo alcuni appuntamenti di oggi. Da oggi a venerdì l'Adria Pappe Festival, rassegna di teatro di figura organizzata dal CTA di Gorizia, fatta a Pagrado. Si comincia alle 10 con il laboratorio Il Giardino delle Sirene. Due gli spettacoli in Campo Patriarca Elia, alle 18.30 all'Alex Barty Show, alle 21 Pinocchio all'Auditorium Biagio Marin. Continuiamo a vedere alcuni appuntamenti del giorno. Concerto omaggio a Battisti e Mogol del gruppo Canto Libero al Parco delle Rose di Grado alle 21. Montagna, che spettacolo! La rassegna di teatro e musica nei rifugi della Società Alpina Friulana continua oggi con un concerto itinerante tra i rifugi di Visione Giulia, Asse La Nevea e Giacomo di Brazzà sui piani del Montasio. L'appuntamento è alle 9.30 al rifugio di Visione Giulia. Da qui i partecipanti al trekking saliranno al rifugio di Brazzà e durante il cammino incontreranno quattro momenti musicali. Tra i sentieri, i prati e i boschi suoneranno i gruppi Legato Allegro Ensemble, Cluster Clarinets, Gruppo Sax e un coro di voci bianche. Giunti a destinazione ci sarà un concerto finale per tutti. Cinema Zero rende omaggio a Ugo Tognazzi nell'anno del centenario della nascita. Questa sera alle 21 a Pordenone, nell'arena all'aperto di Largo San Giorgio, la proiezione di Romanzo Popolare, film del 1974 diretto da Mario Monicelli, che vede Tognazzi nei panni dell'operaio milanese Giulio Basletti. E al via le proiezioni del cinema all'aperto del giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio a Udine. Si comincia alle 21.15 con Un'ombra sulla verità, un thriller alla Polanski. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire il quotidiano appuntamento con un classico della letteratura friulana del secondo Novecento a opera di Don Giuseppe Marchetti. Alle 11.20 andrà in onda la quarta puntata di La radio che pedala. Andremo a scoprire Aquileia in bicicletta grazie a un progetto dedicato a promuovere un'offerta turistica sostenibile in area adriatica. Obiettivo dell'iniziativa: migliorare la qualità ambientale e valorizzare il patrimonio storico e artistico. Alle 11.55 l'appuntamento con Fotoradiografie, dedicato quest'anno al rapporto tra cinema e fotografia. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In regia Maurizio Mona e Giampaolo Zucchi, in redazione ha collaborato Cristina Polselli. Il prossimo giornale radio sarà alle 12.30 da Livia Liberatore ed Elisabetta Zaccolo. Una buona giornata e grazie per averci ascoltato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.